G-U-A. Se stanotte muoio in questa suite, vita Universal di far uscire le mie nuove hit. Così che i miei gangsta possano pomparle nelle Jeep, e alla festa club facciano ballare tutte le bitch. Yeah, fra tu ti senti forte, ma io ti sento in forze. Tu sei un attore, io un alligatore, Cayman Porsche. Sputo su una generazione in posa. Conosco i veri Tony, conosco i veri Sosa. Ti avvolgono di riso, ha ha ha, come un nigiri. Sono come un regista, lei vuole che la giri. Parlo di più coi morti, li preferisco ai vivi. Prendimi bene in testa se miri. Gli occhi Chico non mentono mai. Lo vedo nei tuoi occhi Chico, sento che mi vuoi. Baby fatti anche ammazzare, non mi importa di soffrire. Gli occhi Chico non mentono mai. Lo vedo nei tuoi occhi Chico, sento che mi vuoi. Tutto il cash non può comprare una che non ti sa tradire. Ok, gli occhi Chico non mentono mai. E tu sei la mia piccola copia come un bonsai. Anche se ti vedi in giro come un leader, tu lo sai che sei finto come le piste di neve a Dubai. Li vedo tutti insieme, si incoraggiano da soli. Ma qua nessuno li teme, nessuno gli deve soldi, nessuno li vuole morti. Tanto già sono innocui. Se la situazione cada, si squaglian come ghiaccioli. Per me è un parco giochi, come sparare fuochi. Lo uccido dello sistema in una bara con due fiocchi. Non è che prima ti sfoghi e poi gli haters li blocchi. Questi hanno paura, fra glielo leggo negli occhi. Gli occhi Chico non mentono mai. Lo vedo nei tuoi occhi Chico, sento che mi vuoi. Baby fatti anche ammazzare, non mi importa di soffrire. Gli occhi Chico non mentono mai. Lo vedo nei tuoi occhi Chico, sento che mi vuoi. Il cash non può comprare una che non ti sa tradire. Se sopravviveremo portami a Bel Air. Non dirmi che mi ami, non ti crederei. Le 5 di mattina svelano chi sei. E in quegli occhi rossi ci ritrovo i miei. Ho fatto un bel miscuglio, è tutta sta Don Julio. Mi fa sentire Giulio Cesare, va in pasto ai bulldog. Cade la neve a luglio, ti sgamo anche nel buio. Suono sti fake come un tamburo, scemo, senti il rullo. Gli occhi Chico non mentono mai. Lo vedo nei tuoi occhi Chico, sento che mi vuoi. Devi